quelle rose, ci perdevamo nel nostro amore. Ed ora all'improvviso tu sei andata via, e m'hai lasciato solo in compagnia del mio dolore. Polvere è nient'altro che polvere, ecco soltanto che cosa rimane di questo amore. Le labbra frementi di baci tremanti che amavo di più, ancora le cerco, ancora le voglio, ma dove sei tu? Solamente la polvere ed il gelo nell'anima è tutto quanto mi resta d'un sogno che non c'è più. La scena è vuota, la commedia è finita, che non c'è.